l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 5 minuti dopo le 12 come ogni settimana qui per raccontare l'Europa, l'Europa delle opportunità, l'Europa delle possibilità, insomma questa Europa sotto attacco, questa Europa che così poco piace. Noi cerchiamo di raccontare anche l'Europa che funziona, non vengono nascoste ovviamente le criticità, ma cerchiamo di andare a raccontare tutti quei progetti, tutti quei fondi erogati e che diventano attività concreta, attività reale. Lo facciamo in collaborazione con il network Euronet Plus, euronetplus.eu, il portale che vi invito come sempre a visitare, radio24.it, il nostro sito dove poter trovare tutti i contributi extra e da dove poter poi scaricare il podcast. Ancora i nostri social network, chiocciola Federico Taddia oppure chiocciola Euronet Plus R24, lì tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Partiamo parlando di un progetto da 1 miliardo di euro e si va nella fisica quantica. I principi della fisica quantistica, in questa seconda rivoluzione quantistica, così è stata chiamata, ed è l'applicazione della quantistica alle nuove tecnologie. 1 miliardo di euro, questo è l'investimento che prevede l'Unione Europea, in coda anche da altri importanti investimenti. La Cina, gli Stati Uniti da anni stanno investendo cifre sempre più consistenti. Perché? Perché la quantistica sta entrando nelle nuove tecnologie, e se si parla di rivoluzione un motivo c'è. Per capire che cos'è Quantum Technologies abbiamo con noi Tommaso Calarco, direttore del Centro per le Tecnologie Quantistiche Integrate dell'Università di Ulm e Stoccarda e responsabile del progetto, se non erro, per il CNR italiano, appunto. Buongiorno Calarco. Buongiorno, grazie mille. Allora, cosa sta succedendo? Cosa ci aspetta nei prossimi anni? So che siamo in un ambito molto complicato, molto per addetti ai lavori, però le ricadute nella nostra quotidianità sono lì dietro l'angolo? Ma in realtà, guardi, è molto meno per addetti ai lavori di quello che pensiamo. Già oggi noi abbiamo, io sto usando una tecnologia quantistica di prima generazione per parlare con lei, perché mi ha chiamato sul cellulare, e se noi non conoscessimo e potessimo controllare i fenomeni quantistici, non potremmo costruire dei transistor, non potremmo avere dei laser che alimentano le fibre ottiche su cui viaggiano le comunicazioni, quindi non avremo praticamente l'internet, tutto quello che oggi conosciamo di società dell'informazione. Ma questa è quella, la prima rivoluzione quantistica. La seconda è un passo in più. Che cos'è? Invece di avere in ogni transistor migliaia, milioni e milioni di elettroni che rappresentano le nostre comunicazioni, i nostri numeri, i nostri codici, invece di avere nella fibra ottica migliaia, milioni di fotoni per ogni singolo 0 e 1 dei nostri sistemi binari che trasmettono informazione, abbiamo invece singoli elementi quantistici, un singolo fotone per un singolo qubit, per un singolo 0 o 1, un singolo elettrone o un singolo atomo per un piccolo elemento di un calcolatore. Quali sono i vantaggi? Ora, noi sappiamo tutti i grandi scandali sulla sicurezza, le intercettazioni da parte di agenzie anche governative, purtroppo di altri continenti, diciamo. Arriva l'NSA americana, vuole ascoltare quello che ci stiamo dicendo, di questi milioni di fotoni che sono in comunicazione, che sono in viaggio, ne prendono alcune migliaia anche, non ce ne accorgeremo mai, ma loro possono in questo modo raccogliere tutta l'informazione. Ecco che invece se io le mando un singolo fotone per ogni lettera, per ogni elemento della nostra comunicazione, arriva l'NSA, cercano di prendersi il singolo fotone, non si può, è un quanto. Il quanto vuol dire è la minima parte di un qualche cosa, e quindi non posso avere mezzo fotone, o ho un fotone o non ne ho nessuno. E quindi se loro vengono e cercano di intercettare, ecco che noi subito ce ne accorgiamo. Allora usare i sistemi quantistici singoli nelle comunicazioni porta una sicurezza assoluta che non può essere craccata da nessun codice esterno. E questo è solo un esempio di molte altre applicazioni che abbiamo nella diagnostica, nella medicina, nel calcolo, tutte basate sul utilizziamo singoli, individuali oggetti quantistici, fotoni, atomi, elettroni, per delle nuove applicazioni in campo di elaborazione dell'informazione, di misura, di precisione. Un programma decennale, abbiamo detto, 1 miliardo di euro, coinvolge tutti i paesi membri dell'Unione, finanziato all'interno di Horizon 2020. La partenza è per il 2018. In questa fase state preparando un po', state tracciando l'agenda dei lavori? C'è tutta un ampio spettro di preparazioni, sia l'agenda dei lavori a livello europeo, e quindi abbiamo avuto proprio ieri, sono tornato da Malta, da un evento della Presidenza europea, attualmente di turno quella maltese, in cui abbiamo presentato le prime idee per l'agenda strategica, per la roadmap praticamente di quali devono essere i contenuti scientifici di questo programma europeo, ma anche a livello degli Stati membri. Quindi in particolare in Italia il CNR ha un ruolo di guida in questo senso, attribuito direttamente dal Ministro, e sta coordinando tutta una serie di attività per far emergere l'eccellenza scientifica e tecnologica che è presente nel nostro Paese, per fare sistema, acquisire massa critica e riuscire ad avere un impatto anche a livello europeo. Quindi abbiamo proprio testimoniato ieri a Malta, presente il Presidente del CNR in guscio, che ha presentato presso in prima europea e mondiale, direi, ha presentato il progetto di collegamento quantistico tra l'Italia e Malta, con un canale sottomarino quantistico che sarebbe veramente un scientific first, una prima dimostrazione a livello mondiale. Qui vediamo il nostro paese, insieme facendo sistema con gli altri paesi dell'Unione Europea, è in prima linea, diciamo, nello sviluppo di queste cose, il CNR davanti a guidare la carica, insomma, certo, del nostro sistema di ricerca. Clark, 1 miliardo di euro sembra una cifra immane, è una cifra sufficiente? Non è sicuramente una cifra sufficiente. Noi vediamo che già in questi anni negli Stati Uniti, quello che vediamo è investimenti da parte di aziende come Google, Microsoft, IBM, Intel, che già ogni anno sono diverse centinaia di milioni, se non raggiungono il miliardo. In Cina, nella nostra visita fatta recentemente con alcuni colleghi del comitato scientifico della flagship, siamo andati a visitare un centro a Shanghai. Il direttore ci ha spiegato che il presidente Xi, presidente cinese, li sta stimolando a preparare un programma per 4 volte tanto quello che abbiamo a livello di flagship. È sicuramente però una cifra molto ragguardevole, e quello che vogliamo fare è servire, utilizzarla come moltiplicatore per stimolare l'interesse dell'industria, un ulteriore investimento da parte dell'industria e anche un ulteriore sviluppo di questo tipo di applicazioni, ad esempio nel dispiegamento delle tecnologie quantistiche per la rete della sicurezza nelle comunicazioni europea. Quindi è un importante contributo che ci permette veramente finalmente di passare dal laboratorio alla vita reale, all'innovazione industriale, e di aprire delle prospettive di sviluppo. Abbiamo perso il treno dell'internet. L'internet ha generato guadagni essenzialmente soltanto in America, le grandi ditte di internet non sono qui in Europa. Purtroppo la Commissione europea e il governo italiano hanno riconosciuto l'importanza di investire in questa direzione per non perdere anche questo treno. Quindi siamo ancora in tempo, dobbiamo impegnarci, stiamo partendo per questo. Europe.eu, questo è il portale del progetto Quantum Technologies, appunto adesso la roadmap che si sta stilando, poi dal 2018 iniziano i giochi. Grazie davvero a Tommaso Calarco, direttore del Centro per le Tecnologie Quantistiche Integrate dell'Università di Ulm e Stoccarda. Buon lavoro, Calarco. Grazie mille, buon lavoro a voi, buona giornata. Adesso un euro post-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Trento, il festival della green economy. Attenzione, appassionati di sostenibilità e delle politiche green. In conclusione della Green Week, la città di Trento, dal 3 al 5 marzo, ospiterà la seconda edizione del Festival della Green Economy. Tre giorni di incontri e confronti per parlare di sharing economy, riduzione degli sprechi alimentari ed energetici, di sviluppo sostenibile nei più diversi settori. Dall'edilizia alla produzione energetica, dall'acqua ai trasporti, fino ai grandi temi della geopolitica energetica o alle semplici abitudini che derivano dai nostri regimi alimentari. Tutti gli incontri saranno a ingresso libero. Informazioni e dettagli nella sezione eventi del sito della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ec.europa.eu/italy. L'altra Europa. I'm a living sunset, lightning in my bones. You push me to the edge, but my will is strong. 'Cause I believe in a better way. Fools will be fools and wise will be wise, but I will look this world straight in the eye. Europa, calcio e rifugiati, regole ed esperienze di inclusione sociale attraverso il gioco, il titolo del convegno organizzato da Fare Network a Roma presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio per fare il punto su quanto lo sport in generale e il calcio in particolare possa essere via, strada maestra per l'integrazione. Tra i relatori istituzionali c'era anche Fiona May, responsabile della Commissione per l'integrazione all'interno della Federazione Italiana Gioco Calcio, e Fiona May è qua con noi. Buongiorno May, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Un importante appuntamento per fare il punto, per raccontare anche le esperienze messe in atto. Come sta andando? Il calcio è via di integrazione oggi? Ma andano molto meglio, meglio come prima, non ma meglio proprio prima no, però adesso stiamo lavorando tanto per tante cose. Allo stesso tempo stiamo facendo, anche se puntando per i rifugiati che vengono qui, specialmente per i giovani, ragazzi, andare possibilità per dare, fare qualcosa anche per non di, proprio di dimenticare il loro passato, ma anche accogliere questi ragazzi qui in Italia per fare qualcosa che possono dare loro una possibilità, come ha fatto questa rete. Mm-hmm. Questo è un tournée di calcio, di tutti i centri di SPRA che vengono e fanno anche fare le partite di calcio, anche arrivare a un tournée, arrivare alla finale come ha fatto in questi ultimi due anni, 2015 e anche 2017. E questo dà una possibilità a questi ragazzi per fare qualcosa, cioè un significante della loro vita, anche dei cambiamenti della vita, e poi dopo dare possibilità anche. Certo. Mi ha fatto anche il studio con questa università cattolica che stanno lavorando insieme, ha fatto anche un sondaggio, anche una cosa così, domandando a questi ragazzi se si sentono meglio, sempre più felice, e poi anche questo scontro, anche questi risultati vengono molto positivi. Significa che stiamo facendo qualcosa in genere. Certo. Poi per questo è una cosa importante, penso anche da parte della Federazione Calcio per fare qualcosa importante. Uh-huh. E May, ma ci sono altre esperienze simili a livello europeo? C'è anche uno scambio di buone pratiche con le altre federazioni? Sì, certo, siccome sono parte delle commissioni del Fair Play Social Responsibility di UEFA, stiamo puntando anche tutte le altre federazioni, tutte le altre nazioni per fare qualcosa di simile. Magari fare una cosa per ricordare di più e dare ancora più una mano, perché è una cosa molto molto importante, specialmente in Germania, Francia, anche in Inghilterra. Lavoriamo insieme, stiamo portando una cosa molto più positiva. Non è una cosa facile, perché ognuno di noi abbiamo diverse prassi, legge, le regole, anche di cultura. Stiamo lavorando tanto per migliorare anche usare il calcio come un strumento molto positivo. May, ma è lo sport che porta all'integrazione o è il gioco di squadra che porta all'integrazione? Lei è un esempio di integrazione per mille motivi, però facendo uno sport assolutamente individuale, quindi è un po' diverso, okay? Un po' diverso, molto più un po' difficile anche, però è diverso. Mm-hmm. Però nel senso, poi abbiamo lo stesso obiettivo per vincere. Certo. Questa è una cosa che non che metterci insieme è una sfida, per un obiettivo per vincere più che altro. Certo, grazie davvero e in bocca al lupo per il vostro lavoro settimanale con i ragazzi sui campi di calcio, che insomma è lì il vero sport, quello che poi non viene abbastanza narrato, non viene raccontato. Grazie. Sì, ok, grazie. Buon sabato a tutti. Salve. Europost-it. SVE in Romania nelle scuole. Cerchi un'esperienza nel campo dell'insegnamento e ti piacerebbe farla all'estero? Allora attenzione, perché l'Associazione Scambi Europei è alla ricerca di 2 volontari pronti a partire per un servizio volontario europeo nell'ambito dell'insegnamento attraverso metodologie non formali ed artistiche. Sede di lavoro sarà Sighisoara, in Romania, dove i candidati selezionati resteranno da aprile a settembre e parteciperanno al progetto Kinderland per l'apprendimento non formale. Compiti dei volontari saranno il supporto agli insegnanti, la creazione di attività didattiche attraverso fiabe e leggende e l'organizzazione dei campi estivi Kids Summer Festival. Le candidature dovranno essere inviate entro il 5 marzo, seguendo le istruzioni riportate dal sito scambieuropei.info. Picking wasn't easy, kept it brown and thin. Then a child for every season that the fruit was on the limb. Pack the truck, Maria, tell the kids we're off again. Across a dozen states or more, we'll teach them what we can. Teach them what we can do more. Land is good, but still the living's poor. Harvest in September, drought in mid-July. January's peeking through a white-laced gypsy sky. March blows into April, then plant and pray for rain. Sweat like hell in August, run the circle once again. Run the circle once again and then once more. Ancora gioco di squadra, anche se l'ambito non è più lo sport, ma il lavoro, anche se le assonanze forse sono tante. Il fine è quello di rendere più agevole l'integrazione dei lavoratori immigrati. Questo è l'obiettivo di un progetto finanziato all'interno del programma Erasmus Plus, si chiama Migrade, educare le parti sociali alla diversità etnica nelle piccole e medie imprese. E con noi c'è Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni e responsabile del progetto che vede coinvolti 5 stati membri dell'Unione Europea. Buongiorno Ambrosini. Buongiorno a voi. Cercate un po' di organizzare il gioco di squadra all'interno delle aziende? Ma credo che ci sia l'interesse a sviluppare buone prassi, a farle conoscere, a diffonderle. Quindi il primo punto è capire quello che si sta facendo in diversi paesi dell'Unione Europea per facilitare l'incontro tra gli interessi, gli obiettivi aziendali e le attese, i bisogni dei lavoratori. Anche in Italia ci sono già delle esperienze negoziali, oltre che iniziative dei datori di lavoro per prolungare il tempo delle ferie estive, per esempio, quando si tratta di raggiungere paesi lontani, o per introdurre in mensa dei menù che tengano conto delle differenze culturali dei lavoratori, oppure si traducono in varie lingue le istruzioni per la sicurezza. Quindi già ci sono delle esperienze, si tratta di conoscerle e svilupparle. Certo, ma parliamo di relazioni verticali, quindi dipendente rispetto a datore di lavoro, o anche orizzontali, quindi tra gli stessi lavoratori? Ma qui entra in gioco anche la dimensione negoziale e sindacale, quindi parliamo anzitutto di accordi tra le parti sociali, parliamo di formazione di responsabili aziendali, di sindacalisti e anche di lavoratori immigrati, per rendere più facile la comprensione, l'accettazione reciproca, l'attenzione all'altro nei luoghi di lavoro e anche forse la valorizzazione economica delle diversità che possono essere una risorsa per le aziende. Cipro, Grecia, Italia, Francia e Danimarca, i cinque stati coinvolti. Cinque realtà diverse, sono i punti divergenti o più i punti di somiglianza con le richieste, i bisogni, le esigenze delle cinque realtà? Lei tocca un punto molto interessante e cruciale. Non è la stessa cosa parlare di lavoratori immigrati in Italia o anche in Grecia, dove si tratta di persone arrivate negli ultimi vent'anni spesso con una conoscenza agli inizi modesta della nostra lingua, e altro è parlarne in Francia o in Danimarca, dove la questione oggi riguarda di più le seconde o addirittura le terze generazioni, dove la diversità etnica non ha tanto a che fare con problemi, per esempio, di comunicazione, di comprensione linguistica, di possibilità di trasmettere istruzioni adeguate, come accennavo, sulla sicurezza, ma il problema è più legato alla persistenza e alla domanda di riconoscimento di differenze culturali e religiose. Prima ci diceva appunto attività di ricerca, attività di osservazione, attività di mediazione e anche attività di formazione diretta sia con i dipendenti che con i datori di lavoro, giusto? Sì, lo sbocco finale del progetto è quello di organizzare attività sperimentali di formazione che mettano insieme in aula, per così dire, le parti sociali e anche rappresentanze dei lavoratori immigrati, proprio per modellizzare delle esperienze di formazione che possano essere riproducibili e possano diffondersi nel tessuto delle piccole e medie imprese, che sono poi quelle che maggiormente utilizzano lavoratori di origine straniera. Ambrogini, faccio un'ultima domanda. Cosa succede quando l'università incontra la piccola e media impresa? La realtà è molto diversa da quella che viene narrata sui libri? Ma sono sempre esperienze molto arricchenti, certo. Noi, è chiaro, rischiamo per definizione di avere a che fare con dei giovani, di avere a che fare con un mondo astratto di contenuti trasmessi attraverso i canali del libro, dell'articolo, oggi magari di internet, e incontrare il mondo del lavoro, la realtà, gli attori con le loro preoccupazioni, i loro obiettivi, è sempre stato per me una fonte di grandi conoscenze e arricchimento. Quindi questo progetto oggi è una nuova opportunità per fare esperienze di realtà in cui di certo noi non solo impariamo, ma comunichiamo e costruiamo delle esperienze di relazione che speriamo possano essere fruttuose e consolidarsi. Migrade, educare le parti sociali alla diversità etnica nelle piccole e medie imprese. Un grazie a Maurizio Ambrosini, responsabile del progetto per l'Università Statale di Milano. Buongiorno Ambrosini, buon lavoro. Molte grazie a voi. Noi ci fermiamo, un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Fiera delle carriere internazionali. Vi state affacciando al mondo del lavoro e siete intenzionati a intraprendere una carriera internazionale? A Roma, il 13 e il 14 marzo, torna con il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione europea la Fiera delle Carriere Internazionali, importante evento orientato al lavoro e all'internazionalità come fattori di crescita. Una full immersion durante la quale più di 30.000 ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con funzionari di organismi internazionali, rappresentanti delle più importanti ONG in Italia e nel mondo e HR di prestigiose aziende. Per tutte le informazioni visitate il sito ufficiale dell'evento internationalcareersfestival.org. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. @ Federico Taddia per trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. E con queste note ci facciamo accompagnare verso il cuore d'Europa, Bruxelles, dove il 26 febbraio suonerà in questa data unica in Belgio, per poi continuare Dublino, Madrid, Londra, in questo tour europeo chiamato Celebration Piano Tour, per raccontare, festeggiare i suoi 20 anni di carriera e farlo anche oltre confine. Diamo il benvenuto a Giovanni Allevi. Ciao Giovanni, ben ritrovato. Ciao Federico, allora un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori e grazie dell'invito presso la vostra trasmissione che so è seguitissima e molto importante. Grazie, grazie a te per esserci. Allora, com'è suonare in Europa? Cioè, cambia qualcosa per uno che appunto hai le note, non hai le parole, non c'è il problema della lingua, no? Usi una lingua universale che è quella della musica. Cosa significa toccare, solcare questi palchi che raccontano nazioni diverse, tradizioni diverse, storie diverse? Certo, il fatto che non ci siano le parole mi porta a sentire ancora più stretta la vicinanza con il cuore degli ascoltatori, con la cultura diversa magari da paese a paese, ma mi porta appunto a percepire, a sentire anche le inquietudini del periodo storico che stiamo vivendo, i sogni, gli slanci, le passioni. Quindi sì, è un tour di celebrazione, quindi c'è una grande gioia di fondo, ma al tempo stesso sento un po' una serietà, una piccola preoccupazione. Sì, ci credo. 25 anni sono tanti. Ti volti indietro e cosa vedi? Ah, allora ho fatto una scelta proprio radicale. Non voglio guardarmi indietro, non voglio fare dei bilanci, ecco, e voglio cercare di vivere il presente il più possibile, vivere questa tournée in particolare, questo tour europeo con la maggiore intensità possibile. Questo perché sono ansioso. Allora, ecco, noi ansiosi siamo sempre un po' rivolti al passato, alle scelte che abbiamo fatto, e invece per una volta voglio vivere appunto il presente. Comunque sono tanti, hai ragione. No, sono tanti, sono belli, sono ricchi, insomma, 25 sono anni belli, credo, sì. Di tante soddisfazioni. Alti e bassi. La mia vita artistica è stato un simpatico disastro, con momenti di buio anche. Non può andare sempre tutto bene, questo in tutte le cose. Però quando quelle poche volte le cose vanno bene, allora dobbiamo festeggiare, dobbiamo essere felici che stia andando bene, almeno in quel momento. Giovanni, ma che artista da tour sei? Nel senso, sei in una nazione nuova, sei spugna, sei curioso, ti piace andare a vedere, cercare, trovi anche ispirazioni inattese nel tuo toccare nazioni diverse, cosa che fai da anni, quindi sei molto abituato, però nel caso di un tour magari c'è un'immersione anche temporale maggiore, forse hai tempi anche più dilatati per fermarti nei singoli posti. Nel caso di questo tour europeo in realtà ho un concerto al giorno in un'azione differente, quindi c'è poco da riposarsi, esatto. Ecco, esatto. Comincio anche a riconoscere comunque gli aeroporti, questo significa che sono tante volte che vado in quelle città, in genere sono molto concentrato sulla musica, quindi non riesco ad essere, come dire, una spugna per quanto riguarda i monumenti, i paesaggi o le caratteristiche tipiche della città, però sono una spugna da un punto di vista umano, cioè incontro il pubblico anche, soprattutto dopo il concerto, guardo negli occhi le persone, ascolto le parole sussurrate che sono molto importanti in quel momento, cerco di recepire l'emozione che loro hanno vissuto, e considero quell'emozione il dono più bello che mi possano dare. Ricordiamo allora Bruxelles il 26 febbraio alle ore 20, strano orario, questo possiamo dirlo. Giovanni, c'è un messaggio che con la tua musica, un messaggio finale, ti piacerebbe far arrivare a questa Europa, se avesse due grandi orecchie per poter ascoltare? Sì, stavo riflettendo proprio in questo periodo che sul fatto che noi ci stiamo abituando a misurare i paesi dell'Europa attraverso il solo criterio economico. E questo ci porta comunque ad un'aberrazione, perché ad esempio consideriamo la Grecia come una sorta di fanalino di coda e ci dimentichiamo che invece lì è nato il pensiero filosofico, lì è nato il teatro, lì è nata la nostra identità più profonda, la nostra identità. E quindi piacerebbe che i nostri governanti cominciassero a ripensare l'Europa da un altro punto di vista, soprattutto da un punto di vista culturale. Ecco, e allora bisogna ricominciare a costruire un'altra Europa attraverso nuove basi, nuovi orizzonti, nuovi modi di sentire e di vedere. Chi lo sa, magari attraverso questi concerti, attraverso questo tour, io possa contribuire a creare comunque una nuova sensibilità, nel mio piccolo chiaramente. Magari un semino che viene gettato lì e porterà dei frutti. Grazie davvero a Giovanni Allevi. GiovanniAllevi.com, come sempre ricordiamo il sito per trovare tutte le informazioni in questo lungo e bello e stimolante tour. Grazie Giovanni, buona musica. Grazie, un grande abbraccio. Ciao a tutti. Buon sabato. Ciao. Europostet. UIA, aperto il secondo bando per soluzioni urbane innovative. A tutti gli amministratori e le associazioni attive nei comuni italiani. È stato pubblicato il secondo bando Urban Innovative Action Initiative per azioni innovative di sviluppo urbano sostenibile. Il bando, nato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è destinato al finanziamento di azioni legate a tre diversi campi, cioè al finanziamento di attività per l'integrazione di lungo periodo di migranti e rifugiati, di attività legate all'economia circolare e, infine, al finanziamento di iniziative di mobilità urbana sostenibile. Possono partecipare tutte le autorità urbane di unità amministrative locali con almeno 50.000 abitanti e le associazioni di nuclei urbani con più di 50.000 abitanti. Le azioni proposte dovranno coinvolgere la comunità e i cittadini a più livelli, cioè dal punto di vista sociale, economico, tecnologico o ambientale. Le candidature dovranno essere presentate entro il 14 aprile 2017, seguendo le istruzioni riportate dal sito uia-initiative.eu. Cittadina islandese di 2000 abitanti circa, si chiama Húsavík. Lì è stato allestito un museo dell'esplorazione e i curatori sono due giovani italiani, Giulitta Gubbi e Francesco Perini, jesini entrambi, quindi la storia di una coppia che sta realizzando un proprio progetto sia professionale sia di vita lassù in Islanda. E con noi c'è Francesco Perini. Ciao Francesco. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora, intanto perché un museo dell'esplorazione in una cittadina di 2000 abitanti in Islanda? Qual è la storia di questa, appunto, di questo museo? Ma la storia del museo parte dagli anni 60 in realtà, in un certo senso, perché nel 65 e nel 67 ci sono stati due gruppi di astronauti che stavano facendo vari addestramenti in giro per il mondo, per le missioni Apollo. E uno di questi addestramenti, in realtà uno dei più importanti dal punto di vista scientifico, sono venuti in Islanda, appunto. Uh-huh. E quindi il direttore del museo, che è una specie di nerd di spazio e missioni nello spazio, non si è lasciato sfuggire l'occasione per poter raccontare queste storie che stavano cadendo nel dimenticatoio. Uh-huh. E voi avete contribuito a sviluppare questo percorso, questo progetto, questo museo, ma voi come siete arrivati a Húsavík? Si pronuncia così? Husavik. Husavik, certo, ok. Sì. Come ci siete arrivati? Siamo arrivati un po' per caso in realtà, perché nel 2014 dovevo fare un tirocinio per completare il mio percorso di studi e l'ho fatto al Museo delle Balene di questa cittadina. Dato che Husavik è la capitale di Islanda, in realtà anche una delle migliori zone d'Europa per avvistare le balene, e quindi c'è questo museo molto bello, eccetera eccetera, e quindi niente, poi abbiamo avuto modo di visitare questo museo, che era ancora in fasce perché è stato inaugurato nel maggio del 2014, e a settembre noi ci siamo uniti alla squadra, insomma. E da quel momento collaboriamo e abbiamo sviluppato nuove sezioni, nuovi progetti. E vi siete inventati inventati una professione? No, vi siete inventati il vostro ruolo di curatori del museo. È un museo molto grande? No, è piccolino, è tutto rapportato alle scale islandesi. Se pensi che una cittadina come Husavik di 2300 abitanti è considerata una cittadina in media dimensione, poi è tutto rapportato. Assolutamente. Allora, explorationmuseum.com è il sito internet del museo. E Francesco, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo, diamo le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da te. L'altra Europa. Siamo ancora con Francesco Perini, curatore, insieme alla compagna Giulita Gubbi dell'Exploration Museum di Husavik. Francesco, lavorate a tempo pieno, qual è la vostra occupazione? Sì, lavoriamo a tempo pieno in Islanda, a Husavik. In realtà, a parte occuparci come curatori del Museo dell'Esplorazione, gestiamo anche l'ostello in città, quindi una doppia occupazione. Vi sentite come diciamo usanza tradizionale in Islanda? Ok, cioè, perché comunque le giornate sono più lunghe? No, perché diciamo le persone sono poche, quindi ognuno se deve essere multitasking, bisogna essere in grado di ricoprire più posizioni e seguire più progetti. Vi sentite cervelli in fuga, talenti in fuga, costretti all'esilio per realizzare i vostri sogni, o è una piccola parentesi di mobilità della vostra vita? No, in realtà quel concetto dei cervelli in fuga non ci è mai piaciuto. Non ci riteniamo cervelli in fuga. Sicuramente lavorare in questa realtà, in generale in Islanda, dà possibilità incredibili. Comunque si può proprio lasciare il segno nelle comunità e seguire progetti che qua magari ce li sogneremmo con l'età che abbiamo e le competenze che abbiamo, però comunque non siamo cervelli in fuga e non penso che l'Islanda è la nostra ultima destinazione. Francesco, il prossimo progetto legato al museo, a cosa state lavorando? Stiamo lavorando alla seconda edizione del festival, dell'Explorers Festival. Si terrà a settembre, o ottobre scorso abbiamo avuto la prima edizione. È un evento di 4 giorni che si svolge in città, organizzato da noi, con vari eventi, workshop e ospiti internazionali. Tra l'altro quest'anno ci sarà un nostro connazionale, Alex Bellini. Ah sì, che ben conosciamo. Che ben conoscete, immagino. L'abbiamo avuto ospite, abbiamo seguito la sua avventura islandese per l'appunto poche settimane fa. Quindi verrà a raccontarci questa avventura e molto altro, perché ce ne ha di storie. Certo, e l'esplorazione appunto non è solo spaziale, quella che raccontate, ma spaziate anche in altre direzioni. Sì, l'esplorazione è il concetto, che è il filo rosso che collega tutte le varie storie che raccontiamo all'interno del museo. Grazie davvero Francesco, ricordiamo explorationmuseum.com, questo è il portale per conoscere questo atipico museo islandese. Buon lavoro, ciao! Grazie e buona continuazione. Ciao ciao! When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, Una famiglia in esilio, una famiglia europea in esilio, questo è il titolo dell'ampia mostra allestita dalla Fondazione Querini Stampaglia, inaugurata in questi giorni. È una mostra importante perché racconta la storia di una famiglia, però un pezzo d'Italia, un pezzo d'Italia, vocazione europea. Ne parliamo con Luisella Pavano-Wolf, direttore dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa. Buongiorno e ben ritrovata all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Qual è l'importanza di questa mostra? Beh, come lei diceva, questa mostra è una mostra su una famiglia europea, non soltanto perché l'esilio portò la famiglia trentina in Francia, ma forse anche e soprattutto perché i sentimenti e l'operato antifascista di questa famiglia, soprattutto di Silvio all'inizio, la misero in contatto con politici e intellettuali di varie nazionalità, tutti accomunati dalla convinzione che la guerra si poteva superare solo eliminando i regimi totalitari, ma anche promuovendo un disegno federale europeo. Quindi una famiglia profondamente europea. Silvio Trentin fonda il movimento Libéré Fédéré, che propone gli Stati Uniti d'Europa, lavora poi a due costituzioni federaliste nell'ultimo anno della sua vita, una per l'Italia e una per la Francia, e in tempi più recenti il figlio Bruno, il grande sindacalista, sì, delle lotte sindacaliste degli anni 60 e 70, diventa parlamentare europeo e fa parte del gruppo Altiero Spinelli dal 99 al 2004. Certo, una battaglia per la libertà, una battaglia per la democrazia su scala europea. Quanto bisogno c'è oggi di raccontare queste storie? Beh, io penso che ricordare Silvio, sua moglie Beppa e i tre figli di Trentin oggi sia importante e ci faccia bene farlo proprio adesso, in questo periodo di profonda crisi del progetto europeo, un periodo in cui si parla di Europa e di integrazione politica solo per dire che non va bene, che non funziona, che non sa affrontare i problemi economici dei cittadini, che non risponde più a quelle che sono le aspirazioni degli europei. E penso che vedere quello che hanno fatto i Trentin, vederlo oggi attraverso questa mostra, ci faccia anche ricordare che abbiamo fatto degli enormi progressi in questi ultimi 60 anni. 60 anni che sono stati anni di pace, anni in cui i paesi che si erano combattuti il secolo scorso in guerre sanguinose hanno lavorato insieme per il bene comune. Quindi vedere questa mostra ci serve anche a ricordare che i valori per i quali i Trentin hanno combattuto, come diceva lei, i valori di difesa delle libertà individuali, dei diritti umani, della democrazia, devono rimanere assolutamente alla base di quel progetto di integrazione europea che è il solo in grado di garantire ancora oggi sul nostro continente pace, sicurezza e progresso sociale. Una famiglia in esilio, i Trentin, nell'antifascismo europeo, www.querinistampaglia.org, il sito per avere tutte le informazioni di questa mostra aperta fino al 19 marzo 2017. Una mostra che lei consiglia anche alle giovani generazioni? Assolutamente, oltretutto è una mostra anche bella da vedere, delle stupende fotografie e dei testi molto toccanti che ci parlano, che parlano a tutti, a grandi e a piccoli. Quindi insomma un appuntamento importante. Luisella Pavano-Wolf, direttore dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa, ci vuole ricordare in generale e in particolare in questo momento il Consiglio d'Europa di cosa si sta occupando? Dunque, il Consiglio d'Europa dal 49 si batte per la difesa dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. Direi che negli ultimi decenni ci siamo concentrati di più su quelle che sono le nuove sfide a questi valori fondamentali. Quindi abbiamo lavorato ad esempio sulla lotta contro il terrorismo, sulla criminalità organizzata, lotta contro la corruzione. Abbiamo una bellissima convenzione abbastanza recente sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica. Quindi continuiamo a concentrarci su questi che sono i tre pilastri della nostra attività: diritti dell'uomo, democrazia e stato di diritto, ma guardando di più, forse focalizzandoci di più sulle sfide che la società moderna deve affrontare. Grazie davvero per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie a voi. Buona giornata. Europostit. Concorso Diventiamo cittadini europei. A tutti i docenti e gli studenti delle scuole superiori venete. Il Movimento Federalista Europeo e lo Europe Direct di Venezia, in collaborazione con il Circolo Veneto, indicono il concorso Diventiamo cittadini europei. Un premio che ha l'obiettivo di illustrare i problemi e le sfide che l'Unione Europea deve fronteggiare in questi anni e di dare la possibilità ai giovani di lanciare un messaggio all'Europa. Ogni studente può partecipare individualmente alla gara attraverso la creazione di una prova scritta o di una prova grafica che riguardi uno dei temi proposti dal bando. Gli studenti vincitori partiranno per un soggiorno di vacanza e di formazione presso la Casa d'Europa di Neumarkt in Austria dal 24 al 29 luglio. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 20 aprile seguendo le istruzioni riportate sul bando che troverete sul sito progettogiovani.pd.it. Andrea Roccabella alla parte tecnica, Claudia Scatoni in assistenza, Silvia Righini e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata. Questa è tutta la squadra dell'Altra Europa, da parte loro, da parte mia un grazie a voi che siete stati in nostra compagnia. L'Altra Europa @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica se volete contattarci. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.